Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Che aiutarli a casa loro è un principio ipocrita se poi tagli i fondi per la cooperazione internazionale come ha fatto la Lega. Se vuoi dire aiutiamoli a casa loro, allora aiutali. Noi avremo per 20 anni il tema dell'immigrazione davanti a noi. 20 anni. Chi vi dice che in 20 giorni sarà risolto vi prende in giro. E tutto questo periodo noi dobbiamo avere insieme una strategia che dica all'Europa: se non ci date una mano a sistemare l'immigrazione, noi smettiamo di pagare i soldi a quei paesi che non prendono i migranti. Molto semplice. Semplice, insomma, diciamo, comunque questo è il pensiero di Renzi, che così ha parlato oggi La Vita in diretta sulla Rai a proposito appunto di questo caldissimo, rovente argomento, tema annosissimo dell'immigrazione. Dice durerà almeno 20 anni, se tutto va bene, tra l'altro. Ma comunque abbiamo detto più volte in questi giorni che rischia di diventare l'argomento dominante della campagna politica per le elezioni del 2018. Ormai lo abbiamo visto, ogni giorno se ne parla e il dibattito politico è accesissimo su questo tema. Pensate che persino l'ACEI, i vescovi italiani, sono intervenuti sulla frase di Renzi di qualche giorno fa, che aveva detto aiutiamoli a casa loro, criticandolo, dicendo aiutiamoli a casa loro non basta. In più è una frase che rischia di essere ipocrita se poi uno non dice come, quando, con quali finanziamenti, eccetera eccetera. Uno dei temi questi, quindi, di cui parleremo questa sera, e poi andremo anche sull'emergenza incendi, che si aggrava sempre di più. Ci sono state addirittura 2 vittime in Calabria. Molti, insomma, i temi, quindi non mi dilungo ulteriormente nella presentazione. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sapete che ci sono poi 2 canali privilegiati per voi per interagire qui con Effetto Notte, che è il numero per i messaggi e WhatsApp, che è 349-238-6666, e poi la pagina Facebook di Effetto Notte. Quindi tra poco gli argomenti con gli ospiti. Prima di tutto, come sempre, vi racconto in sintesi la giornata. Migranti, vescovi criticano le parole di Renzi dicendo aiutiamoli a casa loro, non basta. Il Vaticano però, più morbido, commenta: è un discorso valido. Parigi, Trump da Macron apre sul clima e dice potrebbe cambiare qualcosa. La strage delle donne per mano maschile, 2 femminicidi in un giorno, una 48enne uccisa in casa a Bari dal fidanzato, un'altra donna assassinata in strada nel Casertano con 3 colpi di pistola, fermato il compagno. Incendi, si aggrava l'emergenza, 2 vittime in Calabria, sul Vesuvio distrutti 100 ettari di bosco, e i dati di Legambiente rivelano che in un mese solo in Italia brucia come in tutto il 2016. Dati Istat, sono quasi 5 milioni gli italiani in povertà assoluta, 1 milione e 600 mila le famiglie, il doppio tra gli operai. Cina, addio a Liu Xiaobo, dissidente cinese, Nobel per la pace, in carcere da anni. Ora gli Stati Uniti chiedono di liberare la vedova. Roma, il caso nomine in Campidoglio, la sindaca Raggi sentita in procura per dichiarazioni spontanee, indagata per falso e abuso d'ufficio. Le aggressioni con l'acido, confermati in appello 23 anni di carcere per Alexander Böcher. Ciclismo, al Tour de France, impresa di Fabio Aru che conquista la maglia gialla, e per il tennis, Venus Williams a 37 anni è in finale a Wimbledon per la 9ª volta, batte anche Navratilova per longevità. E ovviamente partiamo quindi dal dibattito sui migranti. Il ministro Minniti, ministro dell'Interno, oggi in visita in Libia, ha proposto ai sindaci del sud del paese un patto contro i trafficanti di uomini, e i vescovi italiani intanto muovono 2 critiche alla frase di Matteo Renzi, che aveva detto aiutiamoli a casa loro. Aiutarli a casa loro non basta. Nel dibattito scatenato dalla frase di Matteo Renzi si inserisce anche la CEI, con il segretario generale Nunzio Galantino, che sottolinea la necessità di indicare come, quando e con quali risorse precise, altrimenti, dice, rischia di essere un modo per scrollarsi di dosso le responsabilità. Critiche all'Europa per una solidarietà ad intermittenza o soltanto enunciata arrivano anche dall'Osservatore Romano, che parla di un'Europa inerte di fronte al dramma e alle difficoltà dell'Italia, ormai sola a fronteggiare l'emergenza in prima linea. Da Tripoli, intanto, il ministro Minniti lancia ai sindaci del sud della Libia la proposta di un patto contro i trafficanti. Faremo di tutto per alleggerire la pressione sulle coste italiane, la promessa del premier Sarraj. Nelle prossime ore, nei porti di Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, è previsto l'arrivo di 10 navi per un totale di 7.300 migranti, salvati nelle ultime 48 ore. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora l'incontro a Parigi tra Trump e Macron. I temi principali hanno riguardato iniziative forti per stabilizzare la Libia, convergenze di vedute sul terrorismo e soprattutto una piccola apertura sugli accordi di Parigi relativi al clima. È un'occasione molto speciale, ha detto Trump. Qualcosa potrebbe accadere per quanto riguarda gli accordi di Parigi. Se dovesse accadere, ha detto ancora il presidente americano, sarebbe stupendo, altrimenti sarà lo stesso. L'intento comunque era quello di parlare soprattutto di quel che unisce Francia e Stati Uniti e sembrerebbe che sia stato raggiunto. Torniamo in Italia purtroppo con la strage delle donne per mano maschile che continua. Sono stati due i femminicidi nella giornata di oggi. Nel Casertano una donna, Maria Tino, di 49 anni, è stata uccisa con 3 colpi d'arma da fuoco al torace. I carabinieri hanno fermato il convivente di 61 anni, Massimo Bianchi, sequestrando anche l'arma usata. L'omicidio è avvenuto in strada, in una piazzetta a pochi passi dall'abitazione della donna. L'anno scorso la stessa vittima era stata accoltellata dal marito, che adesso è in carcere. E a Bari una donna di 48 anni è stata uccisa a coltellate in casa, è stato sottoposto a fermo per omicidio volontario il compagno della donna, la vittima si chiama Donata Di Bello, l'uomo ha 32 anni, l'interrogatorio del fermato è durato diverse ore. E siamo all'emergenza incendi, le fiamme continuano a devastare il meridione, oltre 100 gli ettari di bosco andati distrutti sul Vesuvio, a Metaponto evacuate 3 strutture, tanti roghi in Calabria dove ci sono anche 2 vittime. Brucia il sud Italia, dal Vesuvio alla Sicilia, dalla Calabria alla Gallura. I roghi si moltiplicano a differenza dei mezzi ed è una corsa contro il tempo e contro le fiamme. Fiamme che hanno fatto già 2 morti, entrambi nel Cosentino, entrambi pensionati che cercavano di allontanare il fuoco dalle proprie case. Sono arrivati anche 3 Canadair dalla Francia per aiutare l'Italia piegata da un'emergenza che in un solo mese ha distrutto la stessa superficie arsa nell'intero 2016, 26.000 ettari. Ma i roghi aperti sono ancora 400 e non ovunque si riescono a mandare subito i mezzi aerei, così a San Pietro in Guarano, nel Cosentino, davanti alla casa del suo connazionale morto, il sindaco denuncia: dovevamo avere prima un Canadair, dice Francesco Cozza. C'era bisogno di qualche mezzo aereo un pochino prima, ci hanno detto che bisognava attendere. 2 camping evacuati in Basilicata, una casa per anziani in Ogliastra, famiglie sgomberate anche in Gallura come nel Casertano, nuovo fronte in campagna oltre al Vesuvio dove l'esercito blinda ogni accesso. Il colonnello Barduani. È stato chiesto di rafforzare i controlli sulle strade di accesso al parco, arrivando anche a chiuderle. E rinforzi vengono mandati anche in Sicilia, dove le indagini puntano anche sulle possibili omissioni nella prevenzione, oltre che su specifici interessi. Li elenca il procuratore aggiunto di Messina, Giovannella Scaminaci. Dalle autorizzazioni all'esecuzione di queste opere di prevenzione. Raffaella Calandra, Radio 24, il Sole 24 Ore. E poi parleremo di questi dati inquietanti di Legambiente, secondo cui appunto nell'arco di un mese, di quest'ultimo mese, da metà giugno a metà luglio, in Italia è bruciato un territorio pari a quello che è bruciato in tutto il 2016. Poi ci collegheremo con Legambiente e anche per capire un po' questa polemica del ritardi negli interventi delle regioni poco organizzate da questo punto di vista. Adesso comunque passiamo alla questione povertà in Italia. Nel 2016 erano 1.619.000 le famiglie italiane in condizione di povertà assoluta, in tutto 4.742.000 individui, secondo i dati Istat. L'incidenza della povertà assoluta sale al 26,8% dal 18,3% del 2015 tra le famiglie con 3 o più figli minori e se si tratta di famiglie di operai l'incidenza è doppia rispetto a quella delle famiglie nel loro complesso. Stabile la povertà relativa calcolata sulla base della spesa familiare che interessa 8,4 milioni di persone colpendo le famiglie più giovani e quelle più numerose. Arriviamo così alla politica col dibattito che continua a ruotare sulle frasi di Renzi relative a Letta e all'accordo del Nazareno. Intanto Pisapia annuncia: non mi candiderò alle elezioni. Uno scontro, quello tra Renzi e Letta, che si allarga anche alla parte che è uscita dal PD e che all'epoca dei fatti era in minoranza al Nazareno. Secondo Renzi, il cambio a Palazzo Chigi gli fu chiesto anche da questa componente sull'onda del suo successo alle primarie. Ma c'è ancora qualcuno in giro che può credergli a quest'uomo qui, replica però Bersani, ex segretario del PD ed ora esponente di Articolo 1. Nel vocabolario di Rignano, aggiunge Bersani, riferendosi sempre a Renzi e anche alle sue parole sui rapporti tra MDP e Pisapia, ci sono molte P come potere poltrone, mancano la C di coerenza e la D di dignità. Renzi però ribadisce comunque la sua versione della caduta del governo Letta. Non l'ho voluto io, ma è stato giusto fare il cambio della guardia. Altro fronte di polemica è il presunto accordo tra Berlusconi e D'Alema che portò, secondo Renzi, alla rottura del patto del Nazareno. Mediatore dell'incontro sarebbe stato Boccia, sempre del PD, che però parla di fantasie, ricostruzione ridicola anche per D'Alema. Quanto alle alleanze, Pisapia conferma l'obiettivo di catalizzare l'area di centrosinistra che non si riconosce nel PD, ma annuncia: non intendo candidarmi alle elezioni. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E restiamo a Roma, perché la sindaca Virginia Raggi è stata sentita oggi a Piazzale Clodio come indagata per dichiarazioni spontanee nell'ambito dell'inchiesta sulle nomine in Campidoglio. L'audizione si è tenuta dopo l'avviso di chiusura indagine che la sindaca ha ricevuto una ventina di giorni fa per falso e abuso d'ufficio. E poi c'è questa notizia del vicepresidente della Camera, 5 Stelle Luigi Di Maio, che è stato indagato dalla Procura di Genova per diffamazione dopo la querela presentata dall'ex candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle, Marika Cassimatis, poi espulsa dal movimento. E siamo con le notizie dall'estero. In Cina, addio Liu Xiaobo, dissidente cinese, Nobel per la pace, in carcere da anni. Ora gli Stati Uniti chiedono di liberare la vedova, ne faremo poi un ritratto qui nel corso di questa puntata di Effetto Notte. Stati Uniti e Russiagate, il presidente della Commissione Giustizia della Camera statunitense ha fatto sapere di aver chiesto a Donald Trump Jr. di testimoniare, sottolineando che è pronto a emettere un mandato, se necessario, nei confronti del figlio del presidente americano. E c'è poi il caso di Charlie, il medico americano che vorrebbe curare Charlie Gard con una terapia sperimentale, è stato invitato a Londra a visitare il piccolo. Lo riferisce il Daily Mirror, parlando in videoconferenza nel corso dell'udienza all'Alta Corte. Il neurologo, coperto da anonimato, ha spiegato che i nuovi test condotti su cavi hanno mostrato che è possibile un miglioramento delle funzioni cerebrali del bimbo di 11 mesi affetto da una rara malattia. Vale la pena di provare, ha detto, c'è una probabilità del 10% di un successo clinicamente significativo che potrebbe arrivare fino al 56% nelle possibilità di un miglioramento. E intanto il giudice dell'Alta Corte britannica, Nicholas Francis, ha deciso di aggiornare a domani pomeriggio l'udienza sul caso del piccolo Charlie. Di nuovo in Italia con la cronaca, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 23 anni di carcere per Alexander Böcher, il 32enne imputato per una serie di aggressioni con l'acido. I giudici hanno anche deciso la trasmissione in procura di un verbale dell'ex amante di Martina Levato per un'eventuale nuova inchiesta a carico del giovane per concorso nel tentativo di evirazione di Antonio Margarito. E siamo al caso di questa bambina di 16 mesi morta al Bambin Gesù di Roma. A fine giugno è risultata positiva al morbillo. Il morbillo continua a colpire. A Roma sarebbe la seconda piccola vittima da inizio anno, la terza in Italia. Una bimba di 16 mesi deceduta all'ospedale pediatrico Bambino Gesù il 28 giugno, ma la conferma della positività al morbillo è arrivata solo oggi, mentre sono in corso analisi per verificare il nesso causale tra la malattia e l'evento fatale. La piccola era stata colpita da meningite all'età di 3 mesi e per questo era seguita dalla struttura già da tempo. Sempre al Bambin Gesù ad aprile era morta per morbillo una bimba di 9 anni affetta da una malattia genetica e non vaccinata. Stessa sorte era capitata a un bimbo di Monza affetto da leucemia. Dall'inizio dell'anno il virus ha colpito 3.300 persone in tutta Italia. Solo a giugno sono stati 401 i casi a fronte degli 85 del 2016, con un incremento di quasi il 400%. Tutto questo mentre in Senato si continua a discutere sul decreto vaccini che deve essere convertito in legge entro il 6 agosto. Tra le ultime novità, il via libera all'obbligo vaccinale anche per i minori stranieri non accompagnati. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Stati Uniti, finora hanno vinto loro, ma Bill de Blasio non ha intenzione di gettare la spugna. Il sindaco di New York ha lanciato un piano di decine di milioni di dollari, si parla di 32 milioni di dollari, per debellare la piaga dei ratti che hanno invaso la metropoli. Il progetto prevede l'installazione di centinaia di costosi bidoni a energia solare in grado di compattare la spazzatura e impedire quindi ai roditori l'accesso all'immondizia nei quartieri considerati più a rischio. Vedremo se avrà successo questa iniziativa. Poi una notizia che riguarda Venezia, per Piazza San Marco entro fine 2017, quindi entro fine di quest'anno, c'è l'obiettivo di una sperimentazione del sistema di prenotazione degli accessi, non proprio un numero chiuso, come ha detto l'assessore al turismo, ma un accesso controllato che potrà essere pensato in particolari ore del giorno e in particolari giornate. E poi voglio dare anche questa notizia del primo strumento musicale che si suona col pensiero. È stato costruito, si suona con la sola forza del pensiero, senza l'aiuto di nessun movimento. Si chiama encefalofono e consiste in una cuffia che raccoglie i segnali nervosi del cervello trasformandoli in note, collegata a un sintetizzatore, scusate, che permette di creare musica usando i suoni caratteristici di strumenti diversi. È descritto questo strumento sulla rivista Frontiers in Human Neuroscience ed è stato realizzato negli Stati Uniti a Seattle dal gruppo dell'Università di Washington. Potrebbe essere utile appunto per le persone che hanno gravi difficoltà, gravi disabilità. Per chiudere lo sport, Fabio Aru, il sardo, campione sardo, stacca From ed è maglia gialla al Tour de France. E poi l'impresa di Venus Williams per il tennis, a 37 anni è alla sua nona finale a Wimbledon e per tutte queste finali ha una longevità anche superiore, ve lo ricordate, a Martina Navratilova. Direi che il riassunto del giorno è più che esauriente a questo punto. Tra poco c'è la viabilità e poi cominciamo ad affrontare gli argomenti con gli ospiti. Per i vostri messaggi, i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per messaggi WhatsApp che è 349-238-6666. Per esempio c'è già Fabrizio che scrive: migrare è un diritto che deve però essere regolato, non si può aprire le porte e dire venga pure chi vuole, con l'80% del mondo che è povero sarebbe il caos, dice. Per trovare soluzione a questo problema purtroppo non va usato il cuore, ma la testa. E insomma, quante teste pensanti ci vorrebbero. Ma avete sentito anche Renzi, dice, sarà un problema che andrà avanti di qui a 20 anni, magari anche di più, però evidentemente al momento la soluzione non l'ha trovata ancora nessuno. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti fitti di notizie, come sempre Roberta Giordano qui con voi, andiamo avanti sino alle 22, ricordatevi che è l'ultima settimana di questa stagione di Effetto Notte, quindi non perdete neanche un minuto, domani è l'ultimissima puntata e poi ci riaggiorniamo sui prossimi appuntamenti. Intanto i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, oppure il numero per messaggi WhatsApp che è 349-238-6666. Tra poco cominciamo con il primo tema, però se qualcuno non avesse acceso puntualmente le 21, questi sono i fatti in primo piano. Vescovi a Renzi dicono non basta dire bisogna aiutarli a casa loro, i migranti. Continua la polemica, però c'è il segretario di Stato del Vaticano Parolin che apre e dice ma alla fine potrebbe essere un discorso valido, mentre il ministro dell'Interno Minniti in Libia chiede un patto contro i trafficanti. Il caso nomine in Campidoglio, la sindaca Raggi è stata sentita oggi in procura per dichiarazioni spontanee e indagata al momento per falso e abuso d'ufficio. E poi la Camera che approva il decreto Banche Venete, scontro col Movimento 5 Stelle, il Presidente del Consiglio Gentiloni dice no, non facciamo nessun favore a nessuno, intanto c'è il via libera alla commissione d'inchiesta sulle banche. In Cina, addio Liu Xiaobo, dissidente cinese Nobel per la pace che era in carcere da anni, il Comitato per il Nobel dice colpa di Pechino se è morto prematuramente a 61 anni, intanto gli Stati Uniti chiedono di liberare la vedova. Trump da Macron a Parigi apre sul clima e dice potrebbe cambiare qualcosa. Intanto sul Russiagate il Senato americano convoca Donald Jr. e dice se serve metteremo anche un mandato perché compaia. E poi l'emergenza incendi in Italia, in un mese nel nostro paese sono bruciato un territorio pari a tutto quello che è bruciato nel 2016, in Calabria ci sono stati anche 2 morti. E poi sono quasi 5 milioni gli italiani in povertà assoluta, questo è il dato che viene dall'Istat e l'impresa di Fabio Aru al Tour. Quindi cominciamo per una volta dallo sport, una notizia positiva, con l'impresa del campione sardo Fabio Aru al Tour de France. Ha conquistato la maglia gialla in questa tappa con uno scatto finale sui Pirenei, il finale sui Pirenei. Ne parliamo con chi segue sempre per noi il Tour, il ciclismo, Pier Augusto Stagi. Ciao Pier Augusto. Ciao, buonasera. Allora, prima di tutto farei sentire come ha commentato Aru questa sua impresa. Sentiamo. Nella vita bisogna provarsi, io ho provato ad attaccare a 300-350 metri dall'arrivo, lo strappo era veramente duro, però ho pensato ad andare a tutta sino all'arrivo, vestire la maglia gialla è un'emozione indescrivibile, penso sia una delle cose, anzi sicuramente più belle per un ciclista. Ci racconti un po' di questa tappa, Piero Augusto, ma quello che ti chiedo è di far appassionare anche chi di ciclismo non capisce niente e non lo segue in genere. E guarda, per farli appassionare dovevano vedere questa tappa, che è stata veramente molto, molto divertente, con sei colli durissimi. I Pirenei sono veramente generalmente uno spauracchio per qualsiasi ciclista, però esalta il ciclista, esalta lo scalatore. E il finale è stato molto molto bello, proprio perché è stato uno scontro diretto tra i cinque corridori che si stanno giocando questo Tour de France, e noi italiani abbiamo la fortuna di avere tra questi cinque Fabio Aru, che al suo secondo Tour de France sta lottando alla grandissima contro sua maestà Chris Froome. Ricordiamo che il britannico ha già tre Tour al suo attivo e insegue il tanto agognato poker. Se non che si è arrivati oggi proprio a 300 metri dal traguardo su questa rampa, era una rampa molto molto dura, proprio come una rampa che noi abbiamo nel garage al 18%, e il buon Aru ha fatto quello che ha detto: ho provato, nella vita bisogna provare, gli è scattato in faccia e incredibilmente sua maestà Chris Froome ha cominciato veramente come un pugile suonato a zigzagare, proprio è andato in crisi, e in 300 metri ha perso 20 secondi, un'eternità, perché 300 metri sono veramente una distanza non siderale, però il colpo è stato forte. Non si è aggiudicato la tappa per la cronaca l'ha vinto il beniamino di Francia che si chiama Romain Bardet, al secondo posto è arrivato a 2 secondi il colombiano Rigoberto Urán, e il nostro Fabio Aru è arrivato a 2 secondi anche lui terzo, però ha recuperato quei 18 secondi che lo separavano questa mattina dalla maglia gialla e ha vestito la maglia gialla. Adesso Aru comanda il Tour de France con 6 secondi su Chris Froome. Domani c'è ancora montagna, ancora Pirenei, una tappa totalmente diversa. Quella di oggi era una tappa per affondisti, quindi per dare un'idea, una gara di resistenza, 5 ore e mezza di corsa, invece domani sarà esplosiva, perché solo 101 chilometri, ma ci saranno 3 salite, quindi è una tappa mozzafiato, sarà corsa veramente dall'inizio alla fine probabilmente a oltre 40 km orari, e credo che anche domani ne vedremo delle belle. Io sono molto fiducioso perché vedo Fabio estremamente leggero, mi sembra leggero, senza responsabilità, che sta vivendo un sogno. Invece Froome oppresso dalla questa grande preoccupazione e responsabilità di salvare un Tour che invece gli sta sfuggendo di mano. Piero Augusto, scusa. C'è il gallettino Romain Bardet che sta facendo segnare i francesi, che in realtà domani è la festa della Bastiglia, ricordiamo, festa nazionale francese, e noi che cosa c'è? Hanno un italiano in maglia gialla, la cosa non è graditissima. Immagino. Senti, a proposito di maglia gialla e di chi ha vinto, no? E siccome parliamo a tutti, appunto anche a chi non segue il ciclismo, ne capisce, qualcuno si può chiedere come mai ha vinto questa tappa Bardet, il francese Bardet, ma la maglia gialla va al nostro Aru. Lo spieghi proprio in pochissime parole, poi ci lasciamo. Pochissime parole, perché la classifica a tempo, e quindi questa mattina, secondo in classifica, dietro Froome c'era Aru a 18 secondi, Bardet era staccato a 51. E quindi in realtà chi ha recuperato i 20 secondi è stato Aru. Quindi si sono avvicinati sia Aru che Bardet. Cioè, vuoi dire, Piero Augusto, che nel corso delle altre tappe Aru ha fatto talmente tanti buoni tempi che anche se questa tappa è lui, la maglia gialla va sommando questi tempi. È quello che aveva perso minor tempo rispetto a Froome. Chiarissimo. Allora ci aspettiamo lo stesso entusiasmo per domani. Grazie Piero Augusto Stagi. Grazie a voi e forza Aru. Forza Aru. Buona serata a tutti. Ciao. Invece adesso parliamo di questa notizia, cioè che il Tribunale del Vaticano ha rinviato a giudizio l'ex presidente e l'ex tesoriere della Fondazione Bambino Gesù di Roma, che sono Giuseppe Profiti e Massimo Spina. Nel procedimento li ha rinviati a giudizio per la distrazione di fondi della Fondazione Bambino Gesù, perché secondo l'accusa l'ex presidente e l'ex tesoriere avrebbero usato per fini completamente extra istituzionali circa 422.000 euro. Si tratterebbe dei soldi impiegati per la ristrutturazione del famoso appartamento dell'ex segretario di Stato Vaticano Tarcisio Bertone, forse ricorderete. Ne parliamo con Carlo Marroni del Sole 24 Ore. Caro Carlo, buonasera. Buonasera Roberta. Quindi ci spieghi un po' che cosa è successo, fa ritornare in auge, diciamo, quel appartamento tanto criticato e, diciamo, anche di dimensioni, di qualità piuttosto apprezzabili, no, del Cardinal Bertone. Allora, tutto non è del Cardinale Bertone, ma è del Vaticano, del questo appartamento. No, dove vive lui o dove viveva? Non dove so vive se lui, perché va detto, è un ex segretario di Stato, insomma, che ci abbia una, come dire, un alloggio adeguato, questo non è un problema. Però, diciamo così, questa è una storia che risale a un anno e mezzo fa, fine 2015, il cosiddetto la storia Vatileaks 2, che tutto quel processo, quell'arresto di quel monsignore, eccetera. Questa è una vicenda di quella storia più ampia, appunto, dove fu rivelato attraverso libri, ma anche attraverso altre rivelazioni, che appunto soldi del Bambino Gesù, di questo ospedale pediatrico che è un polo d'eccellenza, ricordiamolo, straordinario in tutto il mondo, perché questo è Bambino Gesù a Roma, ma anche per il centro Italia e il sud, 420.000 euro per la ristrutturazione dell'appartamento del Cardinale Bertone. L'allora direttore presidente, che poi è stato appunto rinviato a giudizio in Vaticano, disse sarebbe servito per attività di pubbliche relazioni, appunto per raccogliere fondi. La verità è che appunto il procuratore di giustizia, il pubblico ministero Vaticano, ha ritenuto che questa attività di questa dazione di denaro a favore di questa ristrutturazione sia suscettibile di un processo. Processo Vaticano, ricordiamo che negli ultimi anni il Tribunale Vaticano, che di fatto non si era mai sentito parlare prima, è molto attivo, insomma, è già il terzo processo famoso che fa. Da quando c'è Papa Bergoglio o anche un po' da prima? Già con Ratzinger, con la storia del maggiordomo, se ti ricorderai. Giusto, sì, del corvo, era famoso corvo. Ci sono il corvo, sì. E quello fu il primo grande processo, il secondo è stato appunto Vaticano 2 col Monsignore, sì, con la sua, diciamo, giovane collaboratrice e altri, e ora questo processo che è, diciamo così, però al di là della vicenda di 422.000 euro, che oggettivamente stiamo parlando anche di una cifra non enorme, però forse sarà uno spaccato del governo di quegli anni, perché sono, diciamo così, un periodo in cui il Bambino Gesù ebbe questa dirigenza che fu molto criticata, e quindi forse non sarà solamente questa vicenda, ma diciamo così, forse semmai si farà luce su tutto e ci sarà, diciamo, la possibilità di fare sentire testimonianze, perché i processi vaticani sono aperti, cioè nel senso ci sono giornalisti possono accreditati. Seguire? Possiamo, io ho partecipato, cioè, insomma, c'è una turnazione, possiamo sentire, quindi un dibattimento è aperto. Carlo, vorrei sottoporre anche la polemica che c'è stata oggi, più che altro l'intervento, la critica dei vescovi della CEI, quindi della Conferenza Episcopale Italiana, nei confronti delle parole di Renzi dei giorni scorsi, di questa settimana, che aveva detto a proposito di migranti, che sappiamo ormai è il tema dominante e caratterizzerà tutta la campagna anche proprio politica fino al 2018, aveva detto aiutiamoli a casa loro. Ci sono state vari interventi trasversalmente dal punto di vista politico, oggi anche i vescovi hanno detto ma non è una bella frase, soprattutto non è bello non specificare come e dove e in che modo. Certo, perché è ovvio che questa frase, non so, io non entro nell'interpretazione della frase di Renzi perché se ne è ampiamente dibattuto e te immagino ne avrai lungamente parlato. Sì. E il tono, diciamo così, è usato da Renzi, è un tono che fa pensare ad altre parti politiche, questo è il senso. La CEI si batte per la Chiesa in generale italiana e non per un'accoglienza molto, diciamo, umana, perché questo devo dire, questo va riconosciuto, la Chiesa italiana in particolare spende molti soldi per l'accoglienza, molti milioni di euro, quindi diciamo non è... Diciamo, sì, leggevo che metterà 30 milioni dell'8 per mille, però una cosa... Ulteriori 30 milioni. Sì. Però Carlo, vedevo qualche giorno fa un'inchiesta, mi pare sulla 7, a proposito dell'invito che aveva fatto Papa Bergoglio già diverso tempo fa, dicendo alle varie parrocchie, a Roma in particolare, ma anche nelle altre città, di aprire, no, ai migranti, all'accoglienza. Mi un pare migrante che poi, per ogni parrocchia, disse il Papa. Ecco, mi pare che poi il risultato sia stato piuttosto esiguo. Beh, insomma, sì, non molto, ma ora poi non ho i dati, però è ovvio che alcune sì, alcune no. Però diciamo così, tendenzialmente la Chiesa, e ora al di là della vicenda, la politica è per avere... Quello che ha detto interessante oggi Galantino, che stai parlando del segretario generale della CEI, che è intervenuto a un convegno in Senato, ha fatto un lungo intervento su questo argomento ed altro, ha detto, a proposito di quello che ha poi tutta la polemica europea, sì, tra, dice, Macron, i migranti economici e i rifugiati, dice, ma qual è la differenza? Cioè, giustamente dice, qual è la differenza fra uno che scappa da una guerra e uno che scappa da una carestia? Cioè, non c'è differenza, stiamo parlando sempre di persone che fuggono dalla morte, quindi smettiamola di essere ipocriti. Questo io personalmente condivido. Grazie Carlo Marrone, con questa chiosa ci salutiamo. Ciao Carlo, ciao, buona serata. Ciao. Direi adesso di prenderci questa pausa di ricreazione, un po' di respiro. 349-238-6666 il numero per WhatsApp e messaggi, oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora con le notizie. Vedo diversi messaggi, anche molto, a qualcuno aggressivo, rispetto alla bambina di 16 mesi morta all'ospedale Bambin Gesù a causa del morbillo. Era già, diciamo, molto, aveva un sistema immunitario depresso. Qualcuno dice, ditelo che era vaccinata. In realtà i medici dell'ospedale dicono che è stata vaccinata molto in ritardo. E comunque, al di là di questo, anche nel caso dei bambini che, proprio per gravi malattie che già hanno, non possono essere vaccinati, si dice sempre che ci deve essere l'immunità di gregge, cioè che oltre il 95% delle persone, della popolazione, se è vaccinata, coloro che non possono vaccinarsi per vari problemi non rischiano di ammalarsi. Questo è quello che dicono, che dice la comunità scientifica e i medici, e questo vi riporto. 349-238-6666 per i vostri messaggi, WhatsApp, SMS, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco un altro tema, però queste sono le notizie principali, se le avete perse all'inizio, alle 21. Sul tema dei migranti ne abbiamo appena parlato, i vescovi criticano le parole di Renzi, che aveva detto aiutiamoli a casa loro, e dicono i vescovi non basta, mentre il Vaticano è più morbido e commenta è tuttavia un discorso valido. Parigi, Trump da Macron apre sul clima e dice potrebbe cambiare qualcosa. La strage delle donne per mano maschile, due femminicidi in un solo giorno, una 48enne uccisa in casa a Bari dal fidanzato, un'altra donna assassinata in strada nel Casertano con 3 colpi di pistola, fermato il compagno. Incendi, si aggrava l'emergenza, 2 vittime in Calabria. Sul Vesuvio distrutti 100 ettari di bosco. I dati di Legambiente, di cui parleremo tra poco, rivelano che in un solo mese l'Italia brucia come in tutto il 2016. Dati Istat dicono che sono quasi 5 milioni gli italiani in povertà assoluta. Cina, addio Liu Xiaobo, ne parleremo tra pochissimo. Roma, il caso nomina in Campidoglio, la sindaca Raggi sentita oggi in procura per dichiarazioni spontanee, indagata per falso abuso d'ufficio. Le aggressioni con l'acido, confermati in appello 23 anni di carcere per Alexander Böttcher. Per il ciclismo, al Tour de France, impresa di Fabio Aru, che conquista la maglia gialla. E per il tennis, Venus Williams, a 37 anni, è di nuovo in finale a Wimbledon per la 9ª volta. E adesso occupiamoci della morte di Liu Xiaobo, il premio Nobel cinese per la pace, dissidente cinese che da anni era in prigione, era stato condannato a 11 anni, è morto dopo 11 anni di carcere nell'ospedale di Shenyang, nel quale poi era stato trasferito pochi giorni fa praticamente perché si erano aggravate le sue condizioni per questo tumore al fegato. E, diciamo che ci sono stati nel tempo dei timidi tentativi internazionali di trasferirlo all'estero, di liberarlo, di farlo curare. Proprio nei giorni scorsi anche la cancelliera Merkel, incontrando il presidente cinese, aveva detto, insomma, di avere un po' di compassione, di lasciarlo libero, di farlo curare, ed è finita così a 61 anni. Ne vorrei parlare con Silvia Menegazzi, che è docente di relazioni internazionali all'Università LUISS. Professoressa, buonasera. Buonasera. Lo ricordiamo per chi magari trovasse anonimo questo nome, non lo conoscesse, che figura è stata Liu Xiaobo? Beh, sinceramente credo che appunto una figura anonima, nonostante appunto sia un dissidente cinese, difficile da definire Liu Xiaobo, proprio per come è stato introdotto poco fa, appunto un dissidente che è stato designato del premio Nobel nel 2010. Lo ricordiamo che non era potuto andare a ritirare il premio Nobel a Oslo e c'era stata proprio così a livello di immagine anche simbolica la sedia vuota, era stato letto un suo ultimo scritto, no? Uno dei suoi ultimi scritti. Esattamente, la sedia vuota, che appunto è stato, se vogliamo, proprio un emblema di questo dissidente, che poi è stato molto conosciuto in Cina e anche in Occidente. È un simbolo sicuramente per l'Occidente della lotta, se vogliamo, antidemocratica che Liu Xiaobo ha portato avanti. E un accademico molto importante, considerato appunto dal Partito Comunista Cinese come tra i nemici numero uno del sistema politico. Quindi era un brillante professore universitario. Esatto, un professore universitario anche importante, perché ha avuto un ruolo fondamentale in quella che è stata poi il movimento di Tiananmen del 1989. Si trovava proprio negli Stati Uniti in quel momento e decise di rientrare in Cina per partecipare direttamente alle proteste e sostenere gli studenti, no? Ricordiamo Piazza Tiananmen nel 1989. Morirono, vi ricordate, i carri armati, l'immagine del ragazzo che cerca di fermare i carri armati, si mette davanti, non si è mai saputo il numero preciso di quanti ne hanno uccisi, no? Se centinaia, addirittura qualcuno parla di migliaia in quell'occasione. Esatto, numeri sempre, sì, numeri esattamente, non sempre molto poco chiari, così come poco chiaro in realtà è anche quello che riguarda, se vogliamo, proprio la morte di Liu Xiaobo, e questo è evidente da come è stata riportata ad esempio la notizia sui vari media. Ovviamente immediatamente rimbalzata fra media sia cinesi che occidentali, che definiscono il dissidente in modo ovviamente diverso. Ad esempio i media cinesi lo definiscono come un criminale condannato, diversamente quelli occidentali un attivista dei diritti umani, democratico e per la pace, così come per quello che riguarda le cure. Ad esempio nei media cinesi viene riportato il fatto che il governo tedesco e anche il governo americano si erano complimentati con il governo cinese per le cure date a Liu Xiaobo, che è una versione, se vogliamo, totalmente differente da quella che pubblica proprio pochi minuti fa il New York Times. Quindi anche in merito a questo ci sono notizie poco chiare. Comunque il comitato del premio Nobel ha proprio detto che la Cina, commentando la notizia della sua morte, la Cina è responsabile della morte prematura di Liu Xiaobo e ha definito inquietante la mancanza, appunto, la mancata autorizzazione di Pechino al trasferimento all'estero del dissidente per curarlo, proprio coerentemente con quello che lei stava dicendo, professoressa Menegazzi, no, poco fa. Assolutamente, assolutamente sì. E di nuovo, come ho detto in precedenza, Liu Xiaobo rappresenta veramente, se vogliamo, un po' anche l'emblema non solo appunto della lotta di un dissidente contro una Cina antidemocratica, ma anche del rapporto, se vogliamo, che i paesi occidentali hanno intrattenuto in questi ultimi anni e intrattengono tuttora con la Cina. Chiaramente per interessi economici, perché dal punto di vista dei diritti umani, no, questo è l'ultimo esempio giusto che fotografa la situazione in Cina. Fra l'altro, un testamento di Liu Xiaobo può essere considerato questo uno degli ultimi scritti. Nel 2009, poco prima di essere, mi pare, condannato, aveva scritto: "Nessuna forza può fermare la ricerca dell'uomo della libertà". E poi, quando c'era stato, appunto, era stato insignito del premio Nobel con la sedia vuota, era stato però letto un suo scritto dove diceva: "Credo fermamente che l'ascesa politica della Cina non si fermerà e, pieno di ottimismo, attendo con impazienza l'avvento di una Cina libera". Mi sa che ci vorrà un po' di tempo, professoressa, per... Sicuramente ci vorrà ancora del tempo per vedere quella che appunto veniva, se vogliamo, promossa da Liu Xiaobo, per una Cina democratica, una Cina, se vogliamo, molto più sostenitrice dei diritti umani. E appunto è proprio in seguito al documento che venne così promosso da Liu Xiaobo, ovvero la Charter 08, firmata da altri 302 attivisti, dove appunto si sosteneva la volontà di vedere una Cina democratica e portatrice di valori, se vogliamo, anche in parte occidentali. quindi i diritti umani, la democrazia, la riforma politica, la libertà, in primis la libertà, e certo, quella che appunto è mancata all'inizio. Appunto, che la comunità internazionale avrebbe potuto fare certamente di più. Grazie professoressa Silvia Menegazzi di aver ricordato Luc Xiaobo. Grazie, buona serata. Arrivederci, buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E andiamo avanti quindi con le notizie, Roberto Giordano sempre con voi, 60 minuti di notizie fitte fitte che sono ormai quasi in scadenza, abbiamo ancora all'incirca una decina di minuti e adesso parleremo dell'emergenza incendi che riguarda il centro-sud e soprattutto il sud. Intanto per i vostri messaggi 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte, c'è un ascoltatore che dice, vediamo se lo ritrovo quel messaggio, effetto gregge, dice, a proposito dei vaccini, allora si devono vaccinare anche le guardie all'ingresso dell'ospedale, infermieri, dottori impiegati, queste sono le conseguenze logiche di quanto afferma la comunità scientifica. Ma in effetti, diciamo, nell'ultima discussione in Parlamento relativa appunto al decreto legge sui vaccini si parla anche di una profilassi auspicata, anzi l'obbligo di vaccinarsi anche per medici, operatori sanitari e scolastici, quindi poi vedremo quando arriverà in conclusione questo iter. Vi dicevo, tra poco parliamo di incendi, però se non avete acceso puntualmente la radio, molto velocemente vi ricordo, ai più ritardatari, che i fatti principali riguardano l'intervento dei vescovi, la critica nei confronti della frase di Renzi a proposito dei migranti, quando ha detto aiutiamoli a casa loro, i vescovi dicono non basta se non si parla soprattutto di risorse, di come aiutarli, significa scrollarsi di dosso la responsabilità. E poi intanto il ministro dell'interno Minniti, che è stato in Libia, ha chiesto ai rappresentanti libici un patto contro i trafficanti. Il caso nomine in Campidoglio, la sindaca Raggi è stata sentita oggi in procura con dichiarazioni spontanee, è indagata per falso e abuso d'ufficio. E poi la Camera che approva il decreto banche venete, c'è stato lo scontro col Movimento 5 Stelle ma Gentiloni assicura nessun favore ad alcuno. E poi l'addio, ne abbiamo appena parlato, al dissidente premio Nobel cinese Liu Xiaobo, Nobel per la pace. Il comitato del Nobel dice colpa di Pechino per questa fine prematura del dissidente cinese, morto a 61 anni. Ora gli Stati Uniti chiedono di liberare la vedova. Trump oggi da Macron a Parigi, aperto sul clima, così timidamente dice potrebbe forse cambiare qualcosa. Intanto negli Stati Uniti sempre prosegue il Russiagate e il Senato americano convoca il figlio di Trump, Donald Trump Jr. Incendi in un mese, l'Italia brucia come tutto il 2016, questi sono dati di Legambiente di cui parleremo tra pochissimo. E poi i dati sulla povertà dell'Istat, sono quasi 5 milioni gli italiani in povertà assoluta. E abbiamo aperto con notizia almeno positiva questa impresa del campione sardo Fabio Aru al Tour de France e maglia gialla. Allora, dicevamo che si aggrava l'emergenza incendi soprattutto al sud, tra Sicilia e Campania e Calabria, ma anche Puglia, Basilicata, Sardegna. Tra l'altro in Calabria ci sono state due vittime, due uomini, un uomo anziano è morto per un malore mentre era alle prese con un rogo e un altro uomo di 69 anni di San Pietro in Guarano è morto carbonizzato mentre cercava di spegnere un incendio divampato vicino al proprio terreno nella frazione San Benedetto. Ma il dato inquietante è quello che arriva appunto da Legambiente, che dice che in un mese, da metà giugno a oggi cioè, è andato in fumo in Italia tutto quello che è bruciato nell'intero 2016. E allora saluto subito Stefano Ciafani, che è direttore generale di Legambiente. Buonasera Ciafani. Sì, buonasera a voi. Come mai questa incidenza così forte, questo divampare senza sosta delle fiamme nell'arco di un mese, addirittura hanno bruciato le fiamme più di quanto è successo per l'intero 2016? Ma perché quest'anno, diciamo, purtroppo si sono aggiunti ai i ritardi e alle inadempienze croniche nel nostro paese da parte delle regioni e da parte dei comuni, anche delle inadempienze ministeriali e quindi governative. E il combinato disposto di questi ritardi ha di fatto messo nelle condizioni il paese di non essere in grado di fronteggiare queste emergenze. Le regioni, e nel rapporto che abbiamo pubblicato oggi, proprio le regioni che in questi giorni sono state più coinvolte, quindi dal la fenomeno Sicilia, degli incendi, la Campania e la Calabria, anche il Lazio, sono quelle regioni che o non hanno approvato i piani antincendio o li hanno approvati con grande ritardo. Il piano antincendio è la condizione necessaria, ma non sufficiente, ma necessaria per poter poi mettere in campo la pianificazione degli interventi a terra, degli interventi aerei, di tutte le politiche di prevenzione che vengono prima dell'emergenza, quando l'incendio ormai è scoppiato. E le regioni hanno, era evidente che sarebbe successo il disastro, perché approvare, come è stato fatto tra maggio e giugno, i piani in alcune regioni, quando ormai la stagione estiva è alle porte, tra l'altro una stagione particolarmente siccitosa, e ovviamente diciamo la catastrofe era dietro l'angolo. Queste sono le regioni. I ritardi cronici dei comuni, c'è ancora un fortissimo ritardo nell'applicazione della legge del 2000 che obbliga i comuni a fare il catasto delle aree percorse dal fuoco, perché quando un'area è percorsa dal fuoco entra nel catasto, per 15 anni in quell'area non si può fare nulla, non si può rimboschire, non si può costruire, non si può pascolare, non si può fare nulla. Allora, quello è quello strumento previsto dalla legge del 2000, è uno strumento fondamentale per fermare la mano del piromane o dell'ecomafioso che vuole fare un business nelle aree che poi sono state, come dire, devastate dagli incendi. A questo proposito, Ciafani, quindi si dice sempre più insistentemente che dietro tutti questi roghi ci sia la mano dell'uomo, ma non involontaria, dolosa, per disattenzione, incuria, ma proprio volontariamente. Addirittura si parla di disegni criminali, quindi lei citava le ecomafie, no, Ciafani? Quindi qual è l'obiettivo di questi che appiccano? Guardi, nel rapporto Ecomafia 2017 che abbiamo presentato alla Camera il 3 luglio scorso, ricordavamo come il 58% degli incendi dello scorso anno sono avvenuti nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, quindi Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Questo dato dà la dimensione di come le organizzazioni mafiose e le ecomafie ovviamente hanno un interesse fortissimo nel appiccare il fuoco, perché ovviamente su un'area devastata dal fuoco, se non entra nel catasto che i comuni devono fare, e insomma c'è il business della catastrofe, e quindi il rimboschimento, c'è anche tutta un'attività legata alla, come dire, alla pastorizia, che ovviamente è indirettamente ovviamente legata al fenomeno come fosse, e poi anche la voglia di fare investimenti edilizi nelle aree dove magari che sono state liberate, tra virgolette, dal verde grazie. E però lì ci dovrebbe essere la legge che vieta, no, di costruire per tanti anni. È così, è la legge del 2000 vieta, cioè le aree inserite nel catasto per 15 anni non possono essere toccate, ma i comuni o non hanno fatto il catasto, o quel catasto, se l'hanno fatto, spesso non viene aggiornato e quindi viene disapplicata. I ritardi delle regioni e dei comuni, cronici ripeto, sono stati affiancati purtroppo anche da dei ritardi governativi, perché e questa è una novità, perché dopo l'approvazione del decreto che ha fatto confluire il Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, la legge prevedeva una serie di decreti attuativi che devono fare il Ministero delle Politiche Agricole, il Ministero degli Interni, il Ministero dell'Ambiente, per garantire il definitivo passaggio di consegne di tutte le attività di prevenzione e spegnimento degli incendi che erano proprio del Corpo Forestale dello Stato e che per la legge nuova sono state trasferite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In assenza di questi decreti, dei tre ministeri, si è creato un impasse e quindi non si sa sempre chi deve fare cosa. Allora, quindi persino le questioni burocratiche rallentano la macchina e aggravano gli incendi. E questo purtroppo è un dramma causato anche dalla burocrazia, dalla mancanza, dal non rispetto delle leggi da parte degli enti pubblici, nazionali e locali. E questa è la cosa che fa più rabbia, perché ci sarebbero tutti gli strumenti per contrastare con politiche di prevenzione, con politiche di emergenza nel caso degli incendi. C'è anche la nuova legge sugli ecoreati, approvata nel 2015, che finalmente ha inserito i delitti ambientali nel codice penale dopo 21 anni di lavoro che iniziamo nel 94. Anche la nuova legge sugli ecoreati è uno straordinario strumento deterrente per fermare i piromani, perché il delitto di disastro ambientale inserito nel nuovo codice penale prevede fino a 15 anni di reclusione più le aggravanti per chi commette un disastro ambientale che evidentemente è connesso con il incendio boschivo. E poi riprenderemo questo discorso, Ciafani, adesso ci dobbiamo purtroppo lasciare, ma è interessante, poi purtroppo sta continuando l'emergenza. Grazie intanto a Stefano Ciafani, direttore generale di Legambiente. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Grazie anche a voi. Ci aggiorniamo brevemente qui sempre alle 22.